Ah, e ora accendiamo le scudo. Lo diceva Cla, lo ribadisco. Cazzo corri a fare se poi quando passi non ti ho visto. Resto pistonato nel mio disco. Vai o demolisco il capo nel tuo circondario. Faccio questo pezzo un po' per stile personale. Mentre fumo personale tu sei preso male. Perché hai capito quello che dico, non sono mito come Max. Manzo il dito, non mi puoi giudicare. Pare che sta scena se non è nome non conti. Dimostro che ti sbagli meno di 4 secondi. Se corri c'è il rischio che fondi. Io resto sempre vero, voi sempre stronzi. Conti, faccio i conti, mi tornano tondi. Tu nello stereo pompi, sto suono e non lo togli. Finisce il tappeto quando ci affronti. Affondi giù nel mare a fare compagnia agli scogli. Simo X, questa qui è la mia metrica piuttosto. Inedita, mi batti quando nevica da sono nel posto, Mad Boys click, se ti mangi un trip sei meno sconvolto. Tonico ti sento dopo vomito, io sgomito nell'orido, tu comico, io passo mitologico, so che ti batte logico, mi foto dei tuoi elogi, bro ti credi meglio, sono quello che cambia pronostico. Dimmi perché lo fai, corri ma dove vai, mi chiedo come mai, perché non rallenti, corri ma non lo sai, che non arriverai, perché muoio tu stai andando a fare spenti. Perché lo fai? Corri ma dove vai? Mi chiedo come mai? Perché non rallenti? Corri ma non lo sai? Che non arriverai? Perché muoio tu stai andando a fare spenti. Scappa, sto volto nella trappa, ho sentito la tua rima, mi è sembrata un po' fiacca. A molti H, C, chi ci attacca, qui forse spacca, ma chiappa questa rima marca X. Doppia H, vuoi il bis, vuoi la gara, vuoi pis. Sei una coppia, pensi di essere buono, ma c'ho tristico. Ti conviene non correre troppo, se spingo vinco facile, due barre ti scoppio. Ti fumo tipo l'oppio, ti passo ti doppio. Quando parli di qualcuno meglio se stai all'occhio. Sempre d'occhio, frate, io sono il tuo boia. Ho sentito la tua rima, fa come Fiorella, ma noia. Simpatico come se vuota d'acito, lunatico ti tacito. Mi piace il lato pratico, se agito sta appena viene fuori un genio magico. Mad Boys Crew sul palco nel panico. Mani verso il cielo, non ci credo, ho sentito il tuo rap. Meglio stenderci un velo. Bruciapelo, c'è chi spaccia bonza nel quartiere. Sulla traccia son fasano perché caccia bombardiere. Suoni bere dalla bocca escono sempre più cazzate. Suoni fumare le cellule si sono dimezzate. Frate questo suono ti solleva come un click. Se la scena fa l'appello segna che è presente Simo X. Dimmi perché lo fai, corri ma dove vai, mi chiedo come mai, perché non rallenti, corri ma non lo sai, che non arriverai, perché muoio tu stai andando a fare spenti. Perché lo fai, corri ma dove vai, mi chiedo come mai, perché non rallenti, corri ma non lo sai, che non arriverai, perché muoio tu stai andando a fare spenti. E non c'è stop. Yo, Mad Boys, Mad Boys, Mad Boys.